perfette col bicchiere in mano, anche i biscotti caldi sanno di te. Le gusto con il tuo sorriso, le inzuppo dentro il tuo silenzio, i giorni il caffè e latte sanno di te. È bello sbriciolare i miei sogni, guardo l'ora, è tardi, bevo gli ultimi sorsi, ma non vanno giù. Lo senti se inguidente il mio cuore, come grida. Le nostre trasmissioni sono speciali, tutte di successo, anche il telegiornale parla di te. Il video non si è mai spento, perché non c'è telecomando, le quotazioni in borsa parlano di te. E siccome non ti posso portare con me a testa in giù, procedo lento e quell'ascensore è il mio patibolo. Poi poggio rassegnato i miei piedi in una botola, e ora scusami, devo andar via. So che tu non vuoi, ma vado giù. Le nostre coordinate sono avanti tutta controvento, anche le nostre intese vanno dritte. Le nostre condizioni sono pagare tutto con riscatto, non chieder mai nessuno sconto, rate. È triste ritrovarsi nel letto tutta sola, dirigi il tuo pensiero al balcone, ora guardi giù. Sforgi, fate il cuore e la testa, come gira. So che tu non vuoi.